Non ce l'ho, ormai l'ho visto. Cioè, no, perché mi hai fatto venire la curiosità. Vorrei, tu non porti i braccialetti, adesso che mi ricordo. Così non mi, porto nemmeno l'orologio. Non ma ormai un uomo tecnologico come te. Grazie ad Enrico Pagliarini per essere buona stato con noi. E allora ringraziamo il dottor Aquilar, ma adesso prima di salutarvi voglio coinvolgere un altro amico per l'appunto di Essere Benessere. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Andrea Ribaldone, Executive Chef Italy Tokyo. Ciao Andrea, benvenuto. Ciao a tutti e buon 25 aprile. Andrea, grazie, ricambiamo. Prima il dottor Speciani ci ha lasciato un elenco di alimenti amici del nostro benessere e della nostra salute. Noci, mandorle, pesce azzurro ricco di omega 3, pane, pasta integrali, tuorlo d'uova. Allora Andrea, ti passo la parola perché siamo quasi vicino all'ora di pranzo, quindi perché non trasformare questi ingredienti in una bella ricettina, così noi prendiamo appunti e coniughiamo gusto e salute? Che dici? Allora guarda, io ho pensato, ho sentito cosa ha detto il professore e vi proporrei una ricetta proprio col pesce azzurro. Sai perché? Perché tutti siamo sempre abituati ad andare in pescheria e comprare i soliti pesci che sono sicuramente buoni, però spesso sono d'allevamento. Il pesce azzurro invece è fresco. E come si fa a riconoscere il pesce fresco? Innanzitutto la cosa principale, il pesce non deve puzzare. Questo è importantissimo, sembra una banalità, ma in realtà è il primo cartina di tornasole per capire la freschezza di quello che compriamo. Il pesce deve sapere di mare, soprattutto quello azzurro. Quindi compratelo fresco, costa meno, è ricco in omega 3, come diceva il professore, e vi fa molto bene alla salute. Ed è anche facile da cucinare. Io come ve lo propongo? Ve lo propongo accompagnato innanzitutto a delle erbe primaverili e verdure primaverili, quindi direi gli asparagi. Anche qui gli asparagi cotti velocissimamente, Nicoletta, che vuol dire? Dobbiamo sentirli croccanti, sentirne il profumo e sentirne tutta la freschezza, visto che li abbiamo comprati freschi e non surgelati. Faccio una domandina. Faccio una domandina. Si mettono nell'acqua che bolle o con l'acqua ad acqua fredda? Allora, io li metto sempre con l'acqua che bolle, perché così controllo perfettamente la cottura. Acqua che bolle forte con un po' di sale marino e poi giusto, guarda, un minuto e mezzo, non di più, dopo aver pulito bene il gambo con un pelapatate. Questa è un'altra piccola astuzia che vi dico, tanti la fanno, ma chi non la fa assolutamente è da provare, perché non avrete poi il gambo filoso quando lo mangiate. Quindi pulite col pelapatate il gambo. A questo punto, dopo un minuto e mezzo, togliete gli asparagi dall'acqua che bolle e lo andate a mettere in acqua e ghiaccio in modo da fermare subito la cottura. E poi rimangono verdi in questo modo. Me l'hai insegnato tu. Vedi che imparo. Sono un po' duretta. In più adesso, se avete la fortuna, ci sono anche gli asparagi violetti. Quindi avrete proprio un bel colore, oltre che un sapore unico ed eccezionale. Poi cosa facciamo? Lo sgombro lo sfilettiamo o ce lo facciamo sfilettare dalla nostra pescheria di fiducia? Meglio. E poi andiamo a marinarlo con l'olio di nocciole. Anche qua può sembrare strano, ma l'olio di nocciole unito a quello che è il pesce azzurro, quindi un sapore intenso, va molto molto bene. Ci aiuterà ad avere un accordo aromatico anche con l'asparago, che sarà davvero interessante. L'olio di nocciole non è difficile da reperire, lo trovate nelle gastronomie, nelle botteghe di prodotti alimentari, anche spesso nelle erboristerie. Tra l'altro un olio che fa molto molto bene anche e si può poi usare, Andrea, anche per condire l'insalata. Va benissimo anche per condire l'insalata, esatto. È un olio, siccome è un prodotto piemontese sicuramente, ma anche in altre tante regioni d'Italia si producono nocciole, proviamo ad usare anche prodotti diversi a cui a volte non siamo abituati, ma che ci regaleranno sapori unici. E quindi direi che l'abbinamento pesce-olio di nocciole è davvero interessante. Lo andremo a marinare, nel senso, Nicoletta, che lo lasciamo proprio per un'oretta il filetto di pesce all'interno dell'olio di nocciole. Poi andiamo. Ho una domanda, Andrea. In questa marinatura, scusa, sai, ma io devo andare passo passo. Nella marina, quando io metto il pesce crudo coperto di questo olietto di nocciole, lo tengo in frigorifero o lo tengo fuori? Allora, tenetelo fuori, perché in questo modo la marinatura agisce più velocemente. Tanto è questione di un'oretta massimo, in modo che l'olio tenda a penetrare nelle fibre del pesce. Non di più, basta già un'ora. Lasciatelo pure fuori dal frigorifero, in modo che quasi fa una piccola frollatura, come posso dire, il pesce, in modo che sia veramente saporito e tenero al tempo stesso e ci dia questo buon gusto di nocciole poi. E andiamo a impiattare i nostri asparagi così sbollentati, poi tagliati a fettine se ne abbiamo voglia, e il nostro pesce a crudo e ancora un goccio di olio di nocciole, sale e pepe, nient'altro. Credetemi, un piatto freschissimo per la vostra primavera, è davvero da provare. Grazie ad Andrea Ribaldone. Auguri. Grazie Nicoletta. E per oggi è tutto, io vi saluto, provate allora la ricetta di Andrea Ribaldone, fateci sapere com'è andata, se vi è piaciuta. Intanto io come sempre vi do appuntamento a domani. Buonissima giornata da Nicoletta.